9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, torno ad augurarvi un buon mercoledì 16 dicembre. Parto subito dalla notizia che mi ha colpito e che mi ha deciso a fare la puntata su questo tema. Qual è il tema? Ma continua ad esistere? In che termini? E come bisogna allarmarsene? Come bisogna comprendere un vero e proprio allarme per quello che riguarda la vicinanza impropria di apparati della sicurezza e di forze dell'ordine italiane rispetto a chi gestisce grandi imprese di telecomunicazione? Insomma, le intercettazioni, le spiate, i tabulati impropri nelle mani di chi continuano ad andare? Perché mi risolvo ad affrontare questo che è uno dei tormentoni, me ne rendo conto, del giornalismo italiano? Perché mi ha molto colpito osservare in questi giorni la totale diversità di criterio informativo con cui viene seguita una vicenda che a me sembra in tutto e per tutto uguale invece a un'altra vicenda sulla quale invece 3 anni fa è stato sollevato un enorme cono di attenzione che ha suscitato un gigantesco scandalo che è stata decisiva addirittura nell'accompagnare alla porta fuori dal perimetro dell'azienda chi esercitava il controllo di Telecom Italia allora, cioè Marco Tronchetti Provera. Qual è la notizia? Ieri, 3 colonnine su Repubblica, SIM criptate, è arrestato l'ex capo della security Wind e veniamo informati, gli altri giornali neanche questo, che l'ex responsabile della sicurezza di Wind, cioè Salvatore Cirafici, è stato arrestato su provvedimento del GIP di Crotone, che indaga tra gli altri anche l'ex ministro dell'ambiente Alfonso Pecoraro Scanio nell'ambito di un'indagine relativa alla realizzazione di una centrale elettrica a Crotone, con Pecoraro Scanio indagati altri politici. Ma questo Salvatore Cirafici, l'ex responsabile della sicurezza di Wind, viene arrestato perché svolgeva consulenze per conto di diverse procure della Repubblica ed era a conoscenza delle utenze che i magistrati intercettavano e usava schede telefoniche per sé, per alcuni suoi amici che risultavano inesistenti, e di conseguenza aveva creato una specie di mercato di esercizio del parallelo del potere in termini personali che gli derivava dall'essere capo della security e dall'avere accesso alle dorsali di linea fissa e di linea mobile gestite da Wind, l'ex azienda pubblica Enel, poi ceduta ai privati. Allora, ricordate che cosa avvenne invece nel 2006, quando uno dei refrain per mesi, mesi e mesi, paginate intere sulla stampa italiana, era quello degli spioni di Telecom Italia, cioè Giuliano Tavaroli, ricordate, l'ex brigadiere in servizio presso la sezione anticrimine dei Carabinieri di Milano, poi responsabile della sicurezza dei Pirelli e successivamente del gruppo Telecom Italia, che viene arrestato, si becca diverse ordini di custodia cautelare tra il settembre del 2006 e la primavera del 2007, le passa tutti in carcere per successivi ordini di custodia cautelare in ordine al cosiddetto scandalo Telecom Sismi, perché viene accusato insieme a Marco Mancini, l'ex numero 2 del Sismi di Pollari, e insieme ad amici e soci in affari, per così dire, di Giuliano Tavaroli, come Emanuele Cipriani, proprietario di agenzie di investigazioni dai nomi vari e diversi, e come Marco Bernardini, a sua volta un ex agente a contratto del SISDI, e così via, di avere messo in piedi un vero e proprio mercato privato parallelo, anche in quel caso grazie al fatto di esercitare una funzione molto delicata, cioè il capo della sicurezza di una grande azienda telefonica e di tecnologia avanzata con le dorsali strategiche delle reti fisse mobili del nostro paese. Allora, all'epoca, per moltissimi mesi, lo scandalo di queste presunte intercettazioni, che poi si scoprì che non c'erano, esercitò una pressione incredibile sulla stampa italiana. La storia di Telecom Italia è cambiata per questo. E io stesso scrissi articoli molto durissimi all'epoca contro Tronchetti Provera, perché ero incredulo di fronte al fatto che il presidente, alla cui dipendenza diretta era Tavaroli e i fondi della security riferivano ai fondi di presidenza, io stesso ero incredulo che tutto ciò potesse avvenire senza che il vertice aziendale ne sapesse nulla. Bene, io poi quella vicenda l'ho seguita passo dopo passo e quando siamo arrivati poi al processo e avendo molta stima dei pubblici ministeri di Milano che hanno seguito personalmente quella vicenda, mi sono dovuto rendere conto che a volte i giornalisti sono un po' superficiali, e parlavo per me in quel caso, perché mi sono dovuto rendere conto, cioè, che era possibile, ed era esattamente quello che era avvenuto in Telecom Italia, che il capo della security insieme a un organizzato gruppo di persone potessero davvero mettere in proprio un mercato parallelo privato senza che il vertice aziendale non solo glielo ordinasse ma neanche lo sapesse, e che tanto questo era vero che infatti i pubblici ministeri non hanno poi proceduto a sollevare alcun capo di indagine nei confronti di Tronchetti Provera e di chi gestiva l'azienda, anzi solo grazie all'azienda hanno fatto passi avanti decisivi per arrivare poi a che cosa? A celebrare il processo? No, alla richiesta di patteggiamento che nell'ottobre scorso poi Giorno Tavaroli ha depositato in udienza. Perché dico questo però? Perché nel caso di Telecom Italia è successo un enorme polemica pubblica, e secondo me era giusto tentare di capire che cosa avveniva. Perché invece su Wind non succede nulla? Che cosa ci dice questo silenzio? E soprattutto, ma non è che per caso continua in ogni azienda tecnologica telefonica italiana a esserci un mondo non trasparente, opaco, per cui questa è la mia opinione, vi dirò, e nel corso della trasmissione con gli ospiti tenterò di spiegare perché, per cui ciascun servizio dello Stato, polizia, carabinieri, guardia di finanza, SISD, Sismi e poi le diverse procure, le diverse articolazioni territoriali delle procure continuano ad avere propri uomini in ciascuna di queste aziende, propri uomini che sono ex forze dell'ordine di ciascuno di questi servizi o magari che hanno avuto contatti col mondo delle procure e con i corpi militari di sicurezza dello Stato, e che poi accolgono queste richieste avanzate dalle diverse forze dell'ordine, servizi di sicurezza, procure della Repubblica, per avere tabulati, per avere accesso a riscontri telefonici, e le accolgono senza rispetto delle procedure, richieste avanzate da questi corpi dello Stato senza la proceduralizzazione richiesta per avere l'accesso a questi dati, e richieste soddisfatte dall'interno di queste aziende senza mettere in atto quelle regolari procedure che dovrebbero testimoniare poi un domani la piena tracciabilità di questi dati. Ecco, io ho la sensazione che il caso Wind per l'ennesima volta ci testimoni che ci siano apparati dello Stato che sono abituati ad agire in questo modo, ad andare per le vie spicce, per così dire. È un legittimo sospetto. Il caso Telecom però ci ha insegnato che non era l'azienda privata a fare follie, che erano pezzi dello Stato che si munivano in questo modo e si soddisfavano in questo modo di quello che volevano sapere di imprenditori, di privati cittadini e così via. Fine della mia domanda iniziale. È una domanda che io giro ai nostri ospiti. Abbiamo un ospite particolarissimo che io ringrazio di essersi reso disponibile con noi nello studio di Roma, Gioacchino Genchi. Buongiorno Genchi. Buongiorno. Io ricordo solo a chi ci ascolta, Gioacchino Genchi è un funzionario di polizia, è un vicequestore, molti lo ricorderanno e lo collegheranno anche lì alle polemiche sul caso Why Not. Insomma, io non voglio oggi collegarlo al caso Why Not, voglio ricordare solo a tutti che c'è un libro che in questo momento ricostruisce il punto di vista dettagliato di Genchi su tutto quello che è avvenuto. Parleremo anche del libro, il caso Genchi, il titolo del libro, Storia di un uomo in balia dello Stato, un libro scritto insieme al collega Edoardo Montolli e per Aliberti Editore. Ma qui Gioacchino Genchi è soprattutto come esperto, perché da anni e anni e anni si è occupato esattamente di questo, cioè di cooperare con i magistrati, con le procure, per consentire di mettere insieme i dati nel pieno rispetto, però nel pieno rispetto, delle procedure di legge. E oltre a Genchi abbiamo con noi Gianluigi Nuzzi, giornalista di Libero, che si occupa da anni di inchieste collegate a questi filoni. Buongiorno Nuzzi. Buongiorno al direttore, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oh, Genchi, ha capito che io sono un po' molto sospettoso di fronte a questi due pesi e due misure, caso Wind e caso Telecom. A lei che cosa fa pensare queste due pesi e due misure? Lei ha colto perfettamente nel segno di quello che è il problema che ha fatto scoppiare un po' la mia vicenda e che purtroppo rimane irrisolto. Io debbo premetterle che non posso parlarle in dettaglio della vicenda che riguarda l'arresto di Cirafici, in quanto, come è noto, in quell'indagine sto svolgendo un'attività di consulenza per conto del pubblico ministero che ha richiesto quella custodia cautelare. E posso però parlarle certamente della mia vicenda che precede l'arresto di Cirafici, posso parlarle di quello che era il nucleo centrale che ha fatto saltare l'indagine Why Not, nascondendo peraltro le ragioni reali per le quali quell'indagine era saltata, per cui saltò il pubblico ministero De Magistris e poi a seguire i magistrati di Salerno che stavano svolgendo le altre indagini, compresi gli investigatori e i consulenti che avevano collaborato a quelle indagini. Il punto centrale su cui salta quell'indagine con una mistificazione storica della verità nasce proprio quando si toccano le collusioni all'interno di apparati dello Stato, all'interno delle aziende telefoniche, fra cui la Wind, e all'interno di organi non solo dei servizi di sicurezza, ma della Procura Nazionale Antimafia. Un servizio segreto parallelo potrebbe definirsi, che fa da cuscinetto fra la politica, l'informazione e gli apparati dello Stato. Non sempre, assicurando quei compiti istituzionali che prevedono il solo contrasto alla mafia fra le attività precipue di quell'ufficio. Ed è lì proprio che viene evidenziata quella collusione con giornalisti, partendo da una denuncia del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso su due fughe di notizie clamorose, che non sono fughe di notizie finalizzate a favorire l'amico giornalista o finalizzate a uno scoop, ma che sono finalizzate a decapitare le più importanti indagini che si stavano facendo in quel momento in Calabria e in Italia sull'omicidio Fortugno e sulla strage di Duisburg. Fughe di notizie sulla strage di Duisburg che fecero saltare le microspie a San Luca, che resero latitanti degli assassini, che determinarono altri assassini con danni impressionanti per le indagini giudiziarie che solo il lavoro certosino della Procura di Reggio Calabria sta cercando di recuperare, catturando ad uno questi latitanti in varie parti del mondo. E in quell'indagine furono acquisiti tabulati telefonici di appartenenti ai servizi di sicurezza, di giornalisti, di appartenenti ad aziende telefoniche e di magistrati della Procura Nazionale Antimafia. E fu a quel punto che si ruppe il telefono e fu a quel punto che fu creata la mistificazione a Mastella da una corte di magistrati che spesso dimenticano il proprio compito alla ricerca di posti di potere, alla ricerca di incarichi nei vari ministeri di capo di gabinetto, di magistrati che entrano ed escono dalla Procura di Roma rincorrendo incarichi di sottogoverno per poi ritornare in procura per colpire chi ha fatto indagini su di loro e sui loro ministri o per riacquistare postazioni di potere per ritornare al governo. E questo è il vero punto che poi evidenzia anche la crisi della magistratura italiana. Non serve la divisione delle carriere, non serve il processo breve però se ci mettiamo a parlare, io volevo fermarmi su tutto quello che lei ha detto perché basta e avanza per rilanciare le mie preoccupazioni. Faccio la domanda anche a Nuzzi, perché la cosa, una delle tante cose che mi colpì nel caso Telecom per esempio, fu che nell'udienza preliminare uno dei pubblici ministeri, pubblico ministero di quelli abbastanza noti per avere la fama di essere indefettibili, insomma se avessero trovato anche solo mezza carta in tutto Telecom Italia in grado di sollevare un capo di accusa penale nei confronti di Tronchetti Provera, lo avrebbero fatto, anche questo è il mio giudizio, che invece poi nell'udienza preliminare di fronte all'archiviazione di uno delle posizioni dei personaggi coinvolti nelle indagini sulla banda di spioni di Telecom, dopo 3 anni di grande casino sui giornali per gli spioni di Telecom, dice che si è trattato di una suggestione collettiva. Allora io chiedo a Nuzzi, ma non è che si tratta anche un pochino di un gioco di ombre cinese, cioè nei giornali c'è chi alimenta poi in maniera esplosiva questi filoni di indagine in cui sembra sempre che ci sono decine di migliaia di intercettati, bande riservate eccetera, poi improvvisamente gli stessi pubblici ministeri ci dicono ma no, è stata una suggestione collettiva, non è stato niente, non ci sono intercettazioni, sono al massimo un po' di tabulati. Che cosa c'è dietro queste ombre cinesi per cui Telecom è un grande scandalo, Wind non lo è, Genchi è un bandito oppure Genchi è un vicequestore, insomma non si riesce molto bene a capire. Allora, innanzitutto il direttore è come l'influenza suina, no? Cioè tutti abbiamo comprato, tutti noi italiani tramite le nostre autorità abbiamo comprato milioni di vaccini e poi è poco più di un'allergia, cioè causa meno vittime di qualsiasi patologia che investe ogni estate, ogni stagione il nostro paese. Dico questo perché ci sono sempre dei motivi dietro a dei fatti di questo tipo. Io non credo nell'autoalimentazione degli scoop. Io sono ovviamente un calciatore di notizie, almeno ambisco a essere tale, ma so bene che determinati meccanismi si muovono e gli scandali si creano non solo per il nostro mestiere, ma anche perché magari si sovrappongono interessi diversi. Su Telecom credo che abbia delle frequenze televisive ancora non utilizzate. Credo che Trunchetti Provera in quel periodo assomigliasse più a una sorta di cinghiale sulla quale convergevano i mirini di tanti interessi. Dai fax di Palazzo Chigi sui piani sulle reti dei consulenti e così infatti, via. Io questo l'ho scritto anche perché c'era una serie molteplice di interessi, cioè da una parte un interesse finanziario a mettere le mani o le zampe su quello che è un'azienda importante per il tessuto del nostro paese, ma non solo economico, per il tessuto anche informativo, perché Telecom custodisce molti segreti e molte cose tradizionalmente, come BNL, no? Quando venne privatizzata, aveva gli armadi pieni di documenti, acquistare una banca vuol dire acquistare anche la sua memoria storica. E questo non si discosta molto da quello che è avvenuto con Telecom, da una parte. Dall'altra c'era un interesse mettere una liaison, cioè a passare da Tavaroli alle sue telefonate alla Presidenza del Consiglio e quindi arrivare a Gianni Letta e quindi arrivare a Silvio Berlusconi. E questo era una filiera che si è cercato di ripercorrere con esito sfortunato. Purtroppo noi giornalisti poi siamo di fronte alla magistratura che è molto forte nella fase inquirente e non giudicante, cioè noi viviamo pathos e siamo a bulimici di notizie giudiziarie ormai e sempre più grandi e devastanti, tant'è che siamo l'unico paese del mondo che abbiamo un Presidente del Consiglio indagato, che è stato indagato per strage, cioè una roba sudamericana, no? Ebbene, perché? Perché da una parte abbiamo questa magistratura molto roboante in fase inquirente e che poi si effette suggestioni collettive. Beh, insomma, io credo che queste suggestioni dovrebbero far riflettere tutti, no? Cioè, è possibile veramente che noi ci facciamo coinvolgere? No, dovrebbe esserci una magistratura che fa delle indagini, che ascolta i vari spatuzze, le varie intercettazioni. E poi c'è un altro aspetto, perdonami, perché di InWind non si parla ancora? Io credo che non si parli per una serie di motivi. Uno, perché non c'è ancora questa convergenza di interessi e quindi è una cosa che parte da Locri, che è una procura della Repubblica semi sconosciuta. Voglio dire anche una cosa a tutela di Genchi, ecco, cioè, però fammi capire ancora una cosa, Gianluigi, nella tua esperienza quindi significa, siccome Telecom Italia, grandi armadi, grandi segreti, cacciare Tronchetti era importante e Procura di Milano molto importanza, molto attenzione, grande scandalo, Wind invece insomma interessa meno, poi insomma è molto meno rilevante, Procura iniziale. Periferica, ma sì, anche se lì c'è qualche cosa di improprio meno importante, così? No, direi che siamo in una fase. Beh, Telecom è scoppiata in ogni sua latitudine. Wind ha delle dimensioni finanziarie certo. Diverse e su quali convergono interessi diversi. È un'inchiesta sulla quale si muovono comunque degli scetticismi. No, ma io guarda, non volevo che fosse chiaro a chi ci ascolta. Anche questa è la mia opinione. Il che significa però che se siamo in presenza di mercati paralleli, privati, di capi della security in ogni azienda telefonica, con pezzi dello Stato che si riforniscono di notizie. Scusa, direttore, perdona. Io faccio una domanda a chi ci ascolta e a te per primo e a Genchi, per carità. Ma veramente pensate che in questo paese non esista lo spionaggio e controspionaggio industriale? No, io so che esiste. Lo so, è una domanda retorica, voglio dire, l'ingerenza e la controingerenza dei servizi di intelligence sui mercati delle invenzioni e della ricerca. Cioè, è normale che esista, cioè è normale, nel senso, non lo sto giustificando. No, è normale, è fisiologico che queste cose avvengano. Perché esista un pianeta sotterraneo. Perché possano essere tenute un po' sotto controllo. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando del diverso eco che riguarda l'arresto e l'escapo della security di Wind, Salvatore Cirafici, a cui i grandi giornali, il Corriere della Sera, la stampa dedicano scarsissima attenzione. Il Fatto, come giustamente molti ascoltatori hanno richiamato, che sottolinea, ha dedicato su questo molta attenzione. E abbiamo con noi, oltre a Gianluigi Nuzzi di Libero e a Gioacchino Genchi in studio a Roma, anche Peter Gomez, che sta al Fatto, e a cui chiederò un'opinione su questi due pesi e due misure, perché così poca attenzione per l'ennesimo capo della security di un'azienda telefonica e tecnologica che, secondo i magistrati inquirenti, si alimenta un mercato parallelo di informazioni riservate con appartenenti alle forze dell'ordine o a corpi dello Stato. Però prima di questo voglio informare chi ci ascolta che nella mia ricostruzione personale, perché io mi trovavo ad aver sbagliato, secondo me, analisi su Telecom di fronte al fatto che i PM come Napoleone e Civardi, molto tosti, di Milano, alla fine sollevavano il vertice di Telecom da ogni responsabilità dopo anni di indagini sulla vicenda Tavaroli e collegati come Marco Mancini. Mi sono imbattuto in qualche cosa che mi ha lasciato molto perplesso, la prima volta che ne parlo. Quando Tavaroli fu colpito dalle ordinanze cautelari di custodia per le ipotesi di reato che aveva compiuto insieme ad altri capi di security privati, per così dire, ai quali veniva alimentato un bel mercato di commissioni di indagini, per così dire, in conto proprio per conto terzi, in azienda si creò il problema, naturalmente, in Telecom Italia di nominare, individuare un successore di Tavaroli alla funzione delicata di capo della security. Ebbene, nella ricostruzione che ho fatto io, e ho visto anche documenti, quindi mi prendo la responsabilità di dirlo per la prima volta, la cosa più singolare è che alla testa dell'azienda a segnalare candidature per la successione di Tavaroli furono i capi dell'Arma dei Carabinieri, il capo della polizia, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio che aveva la responsabilità della delega per i servizi di informazione e sicurezza, due servizi di informazione e sicurezza. Domanda: ma perché ciascuno di questi corpi dello Stato a quel punto propone un suo candidato alla successione nella delicata funzione di capo della security di un'azienda che è privata come Telecom Italia, dopo che il successore fino a poco prima è arrestato? Questo solo fatto, che facciano dei nomi in sostituzione dell'epoca di Tavaroli, sono sicuro di quello che dico, non è la miglior prova provata che pezzi dello Stato così importanti, così rilevanti, ciascuno di loro continuavano ad almeno ad allora, e dovrei dire dopo l'arresto del capo della security di Wind ancora oggi, continuano ad alimentarsi dall'interno di queste aziende con propri uomini senza passare per le procedure previste dalla legge? Ecco, questo è il mio interrogativo. Peter Gomez, tu che ne pensi? Io penso, direttore, che tu abbia ragione. Ovviamente il caso di Cirafi ce lo dimostra. Tu prima ti chiedevi come mai la vicenda abbia avuto scarsa eco. Noi del Fatto Quotidiano ci abbiamo provato. È vero che ci sono due dati oggettivi. Una, quella è la Procura della Repubblica di Crotone, ben pochi colleghi seguono quello che succede a Crotone. Seconda cosa, l'esperienza dell'inchiesta Telecom, diciamo dal punto di vista giornalistico, è stata abbastanza sfortunata, perché le domande che tu ti stai facendo adesso, io insieme ad altri colleghi abbiamo incominciato a farcele ancora prima che ci fosse un'inchiesta della magistratura, quando nel nostro ambiente incominciavano a girare voci o di avvenimenti strani all'interno di Telecom, e anche lì abbiamo trovato una chiusura totale. Perché dici sfortunata, per capire? Ma perché in fondo dovevamo farci a un certo punto delle domande politiche, da una parte quelle che ti stai facendo tu da questo punto di vista. Come mai, quale diavolo sono i rapporti fra una grande azienda privata, la security, e gli apparati dello Stato, e perché questo tipo di rapporti sono rapporti, diciamo, informali e non avvengono attraverso le procedure? E dall'altra, signori, Cirafici, non sappiamo ancora cosa ha fatto, avrà fatto il peggio. Dall'altra parte abbiamo saputo che c'era un gruppo di security che ha messo in piedi dossier su esponenti politici, esponenti della finanza, dossier di cui noi non conosciamo il contenuto, perché è stata fatta una legge per impedire che questo contenuto fosse conosciuto. Posso immaginare che dentro ad alcuni di questi dossier ci siano cose veramente importanti. Abbiamo letto per esempio dei dossier di Tavaroli e company che riguardavano il presunto controllo o diciamo le voci che circolavano su un intervento da parte dei vertici del Partito Democratico della Sinistra nella questione delle scalate Telecom, e si diceva, e mai dimostrato dobbiamo dirlo, che fossero usciti anche dei soldi per loro. Sappiamo che questo dossier esiste, il presupposto è che dato che questi signori erano dei bravi spiglioni e dei bravi investigatori, avevano forti controlli, agganci con i servizi segreti di tutto il mondo, in quel dossier siano finiti dei documenti che si suppone non essere falsi, perché nessuno mette in piedi un dossier a uso interno con documenti falsi, la situazione era esplosiva ed è stata silenziata. La politica in questi giorni sta parlando di altro, si parla di cose molto importanti, si parla spesso della nostra privacy, della privacy dei cittadini, dei problemi relativi all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche da parte della magistratura, ma quando si scopre che questo tipo di controlli avvengono in maniera illegale o forse illegale, come accade nel caso di Ciraffici, silenzio totale. Forse perché anche la politica o parte dei poteri, quelli che veramente pesano su questo tipo di attività come quelle dei Ciraffici di turno, alla fine ci marciano. Io ho letto un po' di carte ed è interessante capire qual è il giro di amicizia dei Ciraffici, infatti, il giro di persone, di persone che, con cui è in contatto e che frequenta. Non c'è altro da dire. Genchi, nella sua esperienza di funzionario dello Stato, che si trova poi a essere contestato, messo sotto indagine, messo sotto inchiesta da più procure, poi con un incrocio di atti impugnative, per cui, per carità, ma nella sua esperienza pluriennale, dalle indagini di mafia a quelle di Why Not e così via, senza entrare nel merito della vicenda Ciraffici, ci ha fatto prima il caveat, non può, ma una risposta precisa: la lotta, perdoni il termine improprio ma è esplicito, tra diversi apparati dello Stato, servizi, polizia, carabinieri, finanza, insomma, che ha una storia, perché l'era De Gennaro nasce in un certo modo, esercita dei poteri, smantella dei reparti speciali delle altre forze dell'ordine, insomma, De Gennaro è un'epoca lunga nella storia italiana, faccio solo questo esempio, ma la lotta tra poteri dello Stato continua ad avvenire non proceduralizzata, appunto, con la politica, come faceva, come si chiedeva adesso Peter Gomez, che comanda, o con la politica che ne è ignara a propria volta o capisce qualche cosa ma non è in grado di controllare davvero dinamiche che sono proprie delle forze dello Stato, dei diversi pezzi di forze dello Stato, e anzi in qualche misura la politica ne è poi investita, ricattata, eccetera eccetera. Che impressione ha lei? Lei ha colto ancora una volta l'aspetto centrale del problema. Il vulnus della democrazia sta proprio nella coartazione del consenso, e spesso la coartazione del consenso si determina attraverso la creazione delle informazioni, la creazione delle notizie, la precedenza che una notizia ha rispetto a un'altra nella scaletta, nel palinsesto di un giornale, di una televisione, e in taluni casi la creazione stessa della notizia per modificare il palinsesto o per annullare un palinsesto che spesso non è solo di giornali e di televisioni, ma è anche il palinsesto della politica, dei governi, del Parlamento. E in questo senso l'attività deviata dei servizi di sicurezza dello Stato e di coloro che operano nel campo spionistico ha un ruolo centrale proprio nella creazione delle notizie, dei dossier, come diceva Peter Gomez, come diceva Nuzzi. E io ricordo una battuta che mi fece il mio vecchio capo della polizia. Oggi il potere e la ricchezza non è avere denaro, sono le informazioni. E sono le informazioni riservate, non le informazioni note. Perché le informazioni riservate possono essere utilizzate e caricate come delle cartucce esplosive in un'arma per essere esplose, hanno la loro validità fino a quando non vengono sparate, perché dopo che sono esplose rimane il bossolo, che rimane inoffensivo e inutilizzabile. Ecco quindi che il potere di taluni uomini conta per il numero di scheletri che riescono a custodire nei propri armadi, e in Italia purtroppo c'è parecchia gente che di armadi ha ancora quelli a quattro stagioni. Ecco, e quindi da questo punto di vista bisogna capire che poi alla fine può essere pure in un paese un po' opaco che chi esercita delicate responsabilità per lunghi tempi nel campo della sicurezza pubblica, cioè, eccetera, e le aziende telefoniche, sia un custode di armadi, ecco, questo è... E le aziende telefoniche non a caso sono l'armadio, così appetibili, ecco. Perché nelle aziende telefoniche, al vertice di una qualunque azienda telefonica, indifferentemente la TIM, la Wind, la Vodafone, l'H3G, necessariamente per un sistema sbagliato che poi è il cuore di tutta la problematica delle intercettazioni dei tabulati, che nessuno però vuole affrontare perché la posta in gioco è altissima in termini economici, alle aziende telefoniche per un sistema sbagliato dal punto di vista tecnico con cui ancora vengono eseguite le intercettazioni in Italia, alle aziende telefoniche vengono notificati tutti i provvedimenti, dico tutti i provvedimenti che tutte le procure, i tribunali, le corti d'appello, d'assise d'Italia emettono in materia di acquisizione di tabulati, di intercettazioni telefoniche. All'interno di una qualunque azienda telefonica è così possibile avere notizia in tempo reale di tutte le attività di polizia giudiziaria, di carabinieri, finanza, guardie forestali, che vengono svolte in qualunque parte dell'Italia e dall'estero, da tutte le forze di polizia. Questo è il vero problema. Allora, oggi imporre un uomo in un'azienda telefonica significa avere fatto una polizza assicurativa di sapere tutte le volte che si è indagati o tutte le volte che un qualunque ufficio giudiziario si limita solo a fare una richiesta di intestatario per sapere a chi appartenga un dato numero telefonico. Ora, le informazioni sulla circolazione stradale, poi dedichiamo l'ultima parte a capire se dopo Telecom è la cacciata dei tronchetti, mentre qui invece non si caccia nessuno. Eccoci tornati in studio, abbiamo tratto spunto dall'arresto di Salvatore Cirafici, ex capo della security di Wind, per capire che esiste davvero un doppio pesismo quando vicende simili pensiamo come invece furono trattate, che ebbero in Telecom Italia, e con i nostri ospiti abbiamo fatto un'altra immersione in un'acqua un po' poco pulita e trasparente, quella di come le diverse forze dell'ordine, gli apparati di sicurezza italiana continuano ad attingere in maniera un po' singolare, ecco, dalle dorsali tecnologiche e telefoniche del nostro paese dati che gli servono, con referenti privati, per così dire. E a me questo non mi piace, in un paese che continua ad andare avanti così, in cui sono i capi dei servizi o delle polizie, dei carabinieri o il capo che ha la delega a Palazzo Chigi dei servizi a proporre capi delle security ad aziende telefoniche private, c'è qualche cosa che non funziona. La domanda che faccio a Nuzzi è: da questo punto di vista, dopo Telecom, non si era detto che si era accentrato e reso più trasparente tutto il processo di acquisizione dei dati che servono alle procure per le indagini fatte sui telefoni, sia esso ricadente nelle intercettazioni oppure nell'acquisizione semplicemente di tabulati? Sì, però perdonami direttore, fammi fare anche un po' l'avvocato del diavolo, perché se no secondo me prendiamo, come dire, un'inclinazione non proprio corretta. Cioè, l'indagine su InWind è agli esordi, non solo, c'è un provvedimento di custodia cautelare in atto e siamo ai primi passi, che se ne sappia, di questa inchiesta, quando invece su Telecom Italia siamo in fase di sentenza, no? Per alcuni filoni. Quindi sono due situazioni processuali molto distinte e tra l'altro, con tutto rispetto per Genchi, non può non rimarcarsi il fatto che lo stesso sia consulente della Procura calabrese da una parte e dall'altra sotto inchiesta, o è stato sotto inchiesta quantomeno, insomma, di recente è sotto inchiesta, che l'ho tuttora, proprio per il tipo di custodia dei dati faceva. Quindi voglio dire, è consulente, è una persona validissima, io non sono qui certamente a giudicare il suo mestiere, però è sotto inchiesta proprio per quello che, per come raccoglie nei suoi armadi i dati. Poi lui sa, io mi auguro che lui sia innocente e che possa proclamare la sua innocenza. E pur essendo sotto inchiesta, una procura gli ha affidato un lavoro, e questo permettimi di insomma, mi lascia quantomeno un po' perplesso. Detto questo, quello che dici è, direttore, verissimo, cioè un'opera di bonifica, chiamiamola pure con questo termine, nel settore della raccolta dei dati, dei flussi di dati, ma anche dei flussi delle conversazioni, andrebbe regolamentata. Purtroppo se le istituzioni, cioè le forze di polizia, a me non scandalizza che loro facciano, mandano avanti dei candidati, no? A me questo non scandalizza molto, perché è un effetto... Però scusami Gianluigi, se loro mandano avanti dei candidati, quei candidati faranno i favori di richieste senza scrivere i verbali della legge 231 a informare l'amministratore delegato, alla fine. Perdonami, non può essere, cioè, non è una figura unicamente di un manager che si occupa di questi dati, deve avere dei profili di totale affidabilità da parte delle forze dell'ordine. Cioè, questo aspetto, poi noi non siamo abituati, per esempio se tu vai in qualsiasi paese del mondo e vai a fare delle trattative, dico per assurdo, delle trattative con un'azienda straniera, al tavolo hai il rappresentante dell'azienda straniera e a fianco hai l'uomo dei servizi segreti di quel paese che tutela gli interessi di quel paese, che si siede e si confronta. Per noi sarebbe una roba inaudita, perché noi Per noi sarebbe una roba inaudita, e abbiamo a quel punto le spie telefoniche in quella stessa sala di 5-6 diversi servizi dello Stato che probabilmente possono essere in ascolto, ciascuno con una logica diversa. È questo che mi rende abbastanza inquietante la vicenda italiana. È molto inquietante nella misura in cui va combattuto, e va combattuto in maniera serena e senza interessi di parte. Chiarissimo. È la stessa ragione per cui poi alla fine le procure vanno contro questo o quel servizio, danno per esempio una sintesi dei sismi di Pollari come se fosse una cricca di delinquenti e così via. Cioè, in Italia non ne usciamo ancora da questi decenni, da questi 25 anni di lotta tra apparati dello Stato, che passa poi attraverso anche le scritture magistratuali. Ha chiamato, perché lo abbiamo citato molte volte, noi non lo avevamo coinvolto in questa trasmissione, Giuliano Tavaroli, che è in linea, e sono molto lieto, e prego, e quindi gli cedo il microfono, perché l'abbiamo più volte citato, ma come spunto di questa vicenda, che a mio giudizio, dopo il caso Wind, si ripropone in tutta la sua interezza. Lei che impressione ha, Tavaroli? Buongiorno direttore, grazie. Ma no, al di là insomma delle citazioni non tutte precise e felici, però insomma sconta un po' anche la complessità della vicenda, diciamo così. Certo. Volevo offrire due precisazioni, una molto semplice. È vero, e ha ragione Genchi, c'è un problema che nonostante la vicenda che ha coinvolto a me, ma che non riguardava abusi in quel settore, cioè del supporto delle indagini della magistratura che necessariamente passano presso gli operatori telefonici, c'è questa anomalia, nonostante problemi ricorrenti, dovrebbe essere risolta. In altri paesi è così, bisogna rendere indipendente le attività di indagine dalle compagnie telefoniche. Tutti staremmo meglio e tutto sarebbe più trasparente, perché tecnicamente non sarebbe neanche necessario doversi rivolgere alle compagnie telefoniche per eventualmente spettare attività di indagini. Ma questo è un fatto che, voglio dire, è stato auspicato da me anche prima dell'eventuale poi vicenda penale che mi ha riguardato. Ma c'è un altro fatto che è sfuggito, che secondo me è importante sottolineare. L'uomo della sicurezza delle aziende telefoniche, di Telecom in assoluto, di altre aziende che hanno contratti pubblici, cioè che detengono o gestiscono traffico per conto dello Stato, è abilitato dallo Stato con un nulla osta segretezza, è incaricato della sicurezza abilitato dalla Presidenza del Consiglio, è un ruolo come dire, a tutela stessa della sicurezza dello Stato, perché quando un'azienda telefonica gestisce le linee telefoniche militari della Presidenza del Consiglio, le linee di emergenza, il sistema di protezione civile, tutte queste linee che sono sensibili per lo Stato, ovviamente richiedono che le persone vengano abilitate, gli stessi tecnici, con un particolare criterio. Chiarissimo Tavaroli, però la sua esperienza, e io non entro nel giudizio della vicenda processuale, penale, cioè, la sua vicenda testimonia che in un ordinamento in cui pezzi dello Stato, cioè procure da una parte, sismi dall'altra, polizia da una parte, carabinieri, guardia di finanza dall'altra, hanno visioni, vogliamo dire, contrastanti, e vogliamo dire che anche processualmente sono contrastanti, di qual è l'interesse da perseguire, di come si proceduralizzano le richieste e di come si portano avanti le indagini, ecco che la sua vicenda ha clamorosamente confermato, e non parlo della sua responsabilità individuale penale, ma ha clamorosamente confermato che quella contrastante visione tra colpi dello Stato si ripercuote poi sul controllo di grandissime aziende private italiane. Si ripercuote poi su equilibri tra la politica e i diversi pezzi dello Stato, e la politica a me sembra quasi vittima, a dire la verità, non la voglio difendere. E ha ragione da una parte Peter Gomez a dire: in realtà noi non capiremo mai cosa c'è scritto in tutto questo, perché ormai è tutto coperto da segreto. E dall'altra ha ragione Nuzzi a dire: attenzione, che questo capita anche in altri paesi. Insomma, secondo me, e concludo e ringrazio tutti, vi ricordo il libro del caso Jenkins, Storia di un uomo in balia dello Stato, per la Liberty Editori. La vicenda Wind insegna a noi giornalisti che dobbiamo tenere gli occhi aperti allo stesso modo, con la stessa durezza con cui facemmo su Telecom, perché altrimenti vuol dire che all'epoca volevamo cacciare qualcuno, e oggi, siccome non c'è nessuno da cacciare, Wind, stiamo tutti zitti. Viva quelli del Fatto che fanno pezzi, mentre gli altri, secondo me, non li fanno. Grazie, a domani, Lina Giornale Radio. 9 in punto, la versione di Oscar.